Nevicas, un paesino anonimo della Toscana in un imprecisato periodo del secolo. La luce del giorno si sta affievolendo, producendo delle lunghe ombre sui muri delle case. Padre e figlio siedono accanto, compiti, all'interno di una grande automobile. Il padre porta un berretto nero d'autista. Il ragazzo, di circa 11 anni, pettinato con cura, sul suo volto traspare un'aria orgogliosa dovuta dalla sua posizione. Il padre si rivolge al ragazzo dicendogli: «Ricordati che bisogna sempre andare avanti, molto lentamente». Il ragazzo non risponde. È molto concentrato nell'imitare i gesti e le manovre del padre. L'automobile su cui i due viaggiano è un vecchio carro funebre nero, seguito da un corteo di persone anch'esse nere. L'atmosfera risulta particolare, un grosso serpente nero che percorre in silenzio la bianca strada del paese. Questo è il ricordo del mio primo funerale, cui partecipavo direttamente in modo ufficiale. Ero teso e fiero. All'interno di quel carro potevo osservare i miei coetanei con una certa aria di superiorità. Eseguivo un lavoro importante, l'aiuto becchino. Mio padre, infatti, era il custode del cimitero del paese. Io e la mia famiglia vivevamo in una casa all'interno del cimitero. Non era precisamente una di quelle case da rimanere entusiasti, visto che originariamente erano previsti i locali dove eseguire le autopsie. Comunque mio padre la spacciava a tutti noi come un piccolo accogliente appartamento in un grande condominio. E vi lascio immaginare chi fossero gli altri condomini. Mio padre, di nome Remo, era un tipo taciturno e pacato, abituato tutto il giorno ad avere poche conversazioni con i clienti. Continuava così anche in famiglia. Il suo lavoro diurno aveva un'appendice serale anche in casa. Il tinello della casa aveva una duplice funzione, quella consueta di sala da pranzo ed una più stravagante di laboratorio, dove Remo operava sulle lapidi di marmo, attaccandoci sopra le lettere, cornici per le foto in ceramica e piccoli crocifissi di bronzo o di semplice alluminio per clienti meno facoltosi. I delicati piatti, preparati dalla nonna con l'aiuto della mamma, si trasformavano in una sorta di polenta esoterica, composta non solo da farina vegetale, ma soprattutto da nuvole bianche di marmo, condite da un aroma speciale di mastice. C'erano solo due camere da letto, perciò erano sfruttate al massimo. Nella prima ci dormivamo io e i miei genitori. Il mio piccolo letto era posto in un angolo della stanza attigua alla porta che conduceva nella seconda camera. In questa riposavano la nonna Aurelia, le mie due sorelle Gabriella e Graziella e infine mio fratello maggiore Andrea. Tutto sommato, il clima era dolce ed accogliente. Quella strana casa mi aveva accolto proprio mentre venivo al mondo e quella era la mia area di appartenenza. Vivevo all'interno di un grande condominio, isolato dal resto della comunità, ma era per me un luogo fantastico, un'isola in cui rifugiarsi per trovare situazioni eroiche, esaltarsi del proprio coraggio e dichiarare la propria libertà e diversità dai miei coetanei. Man mano che crescevo, quel luogo smetteva di apparirmi un'isola in cui rifugiarsi ed esaltarsi del proprio coraggio. Anzi, mi rendevo conto che gradualmente il cimitero diventava un ostacolo enorme nel farmi accettare dai miei coetanei, i quali ai loro occhi ero sempre solo il figlio del becchino. L'unica persona che poteva capire e condividere i miei disagi, perché deriso anch'egli dai paesani, era Vittorione, l'aiutante volontario di mio padre. Vittorione era uno strano tipo di matto del paese, un ex pugile con alla spalle una vita piena di sofferenze dovute alla guerra. Aveva uno strato impressionante di callo sopra le nocche delle mani, perché la passione della boxe non l'aveva abbandonato ed era sua abitudine allenarsi dando innumerevoli cazzotti a mani nude sul muro di cinta del cimitero. Non era un tipo particolarmente simpatico ed io cercavo sempre di evitare di rimanere solo con lui. Vittorione era considerato dai paesani un tipo cinico e volgare e lui non mancava occasione per confermare questa impressione anche nei momenti meno indicati. Giravo spesso in bicicletta attraverso gli stretti viali del cimitero. Un giorno, mentre pedalavo per i fatti miei, Remo mi chiese di aiutarlo in un'esumazione. Il tipo di lavoro in questione diventava delicato quando si raggiungevano i resti della cassa di legno. Era opportuno porre molta attenzione nell'estrarre i resti del defunto, lasciare vanga e zappa e procedere con un piccolo arnese da scavo. Ero completamente a disagio. I parenti del defunto mi osservavano attenti e preoccupati, così cedetti all'ansia di estrarre velocemente il teschio e coordinando male la forza impressa sull'arnese causai una spaccatura nel centro del cranio ancora seminterrato. Ciò produsse una fragorosa risata di Vittorione tra il disappunto generale dei parenti spettatori che inveirono su mio padre, colpevole di sfruttare un ragazzo per simili lavori. Vittorione cercò di rassicurarmi, ma l'imbarazzo era troppo grande e fuggii a casa. Avevo una piccola mania letteraria. Registravo su un quadernetto brevi frasi tratte dalle epigrafi e le più bizzarre, come strappato all'attenzione della famiglia, vittima innocente di una crudele macchina, la vita è bella. E i nomi più strani dei nuovi arrivati. Così annotai dopo l'incidente anche il nome del tesoro che non riuscii ad estrarre. Cremo, cerchiandolo con una matita rossa affiancato da una crocetta, ritenendomi quasi colpevole di una sua seconda morte.